Buongiorno, vorrei un beat. Sì, guardi, sono 50 euro. Ah, grazie. Paro, posa, Nash, 2008. Ah, e sei, sei, sei. Verace, verace, musica vera. Sei, sei, sei, piffe, posa, paro. Liberare l'intesa. Il primo articolo della Costituzione italiana dice che è una repubblica fondata sul lavoro. Il secondo dice che secondo me è basata sull'oro che non sanno cos'è il lavoro, visto che hanno tutto gratis dalle BMW alle Marlboro. In testa c'hanno un foro imperiale che mi fuma la faccia del loro tono. No, non li perdono. Se quel che è fatto, io non chiedo scusa. Evidentemente fatto merita attenzione, visto che c'è chi made in USA. Di chi me abusa, chi te le promette poi ci fa le fusa. Io preferirei più gente giù da un treno della TAV con la testa contusa. Oh scusa, meglio una morte rapida, veloce, in qualche modo conclusa, che una di cent'anni schiavi di seconda classe confusa. Il lavoro rende liberi, liberi. Sto diventando matto. Il lavoro rende liberi, liberi. Aspetta, sto terminando. Il lavoro rende liberi, liberi. Sto diventando matto. Il lavoro rende liberi, liberi. Mamma, che dura sto. Vuoi dire una cosa? Contratto. Mamma, io da grande farò il rapper. Niente contratto a termine. Se vogliono mi licenziano tra beat e metriche. Eccole le stampate del curriculum e esperienze lavorative zero, gli dico. Italia, repubblica fondata sul lavoro. Non cercherei se cagassi oro. E sono al verde come le praterie. E nelle tasche mie ho mille fantasie. Apatie, indifferenze, nessuno pensa a te. Perciò fai esperienze perché chi fa da sé fa per tre. E lievita il progetto proprio come dal Prestinè. E come Paro che sistema le valigie, io chiedo al bar al centro e vediamo che mi dice. Perché un po' di soldi fanno comodo, ma non li spendo in monitor, li spendo in bombolette e molotov. Il lavoro rende liberi, liberi. Sto diventando matto. Il lavoro rende liberi, liberi. Aspetta, sto terminando. Il lavoro rende liberi, liberi. Sto diventando matto. Il lavoro rende liberi, liberi. Finché dura sto contratto. Io bella Piff MC, con gli stili quelli vasti. Piff e Paro posa MC, giocano a scacchi. Lavoriamo tutto il giorno in un'Italia troppo sporca. Faccio un lavoro che piano piano mi sotterra. Ma che bella prospettiva che ho per un futuro. Tanto so che 500 li trattengono di sicuro. Lavoro una vita per aumentare tre scatti. Io rispondo vaffanculo sopra questi quattro quarti. Bastardi, poi si stronzi, fanno monumenti. Provate a farlo i cittadini che vi passano gli alimenti. Ma che stipendi, viviamo nella povertà. Fra un po' va a finire che il terzo mondo ci supera. Questa è la fottuta realtà. Siamo schiavi di questa società. E domani si lavorerà. E perché siamo qua non si sa. E tiriamo avanti finché la morte non ci prenderà. Il lavoro rende liberi, liberi. Sto diventando matto. Il lavoro rende liberi, liberi. Aspetta, sto terminando. Il lavoro rende liberi, liberi. Sto diventando matto. Il lavoro rende liberi, liberi. Finché dura sto contratto.